Ciao Federico, ciao Randy Onda Rossa. Allora, oggi, come al solito, come ogni giovedì, il Valle insomma invade San Lorenzo, invade Radio Onda Rossa. E però insomma è una puntata un po' particolare oggi, perché insomma abbiamo portato un po' i mattarelli del Valle, i casi clinici, quindi, come preannunciato. E l'abbiamo anche intitolata così, The Others, questa puntata, perché sennò si pensa che in occupazione, no, sì, tutti stanno bene, si vive bene, invece ci sono un sacco di problemi in occupazione. E quindi vabbè, premetto insomma che se ci saranno proprio delle difficoltà, ecco, è dovuto perché noi ci riteniamo diversi e la diversità per noi è insomma conquista, terra di conquista. E tra gli ospiti che avremo oggi, ci saranno un sacco di sorprese oggi, ci saranno anche alcune parole difficili. Si tratta di terminologia viva, parole difficili, pesanti, per risollevare un po', diciamo, questo tedio umore dei media. E saranno tutte annunciate da questo effetto sonoro. Acido ialuronico. Bene, iniziamo. Allora, noi vorremmo raccontare un po' quello che stiamo facendo, sì, questa settimana, insomma in questi giorni, e stiamo una delle curiosità di questa settimana è che ci siamo insomma messi in testa che negli anni 90 venivano fatte delle canzoni rivoluzionarie, venivano fatte delle canzoni cattive, importanti, con testi, parole veramente forti. E allora niente, stiamo proprio studiando questa cosa e abbiamo proprio fatto una rubrica per questa cosa, gli ingiustificabili 80. Pioggia viola. Non ho mai inteso causarti dolore, non ho mai inteso farti del male. Volevo solamente vederti ridere una volta. Volevo solamente vederti ridere nella pioggia viola. Pioggia viola, pioggia viola. Volevo solamente vederti bagnata dalla pioggia viola. Non ho mai voluto essere il tuo amante della domenica. Volevo solamente esserti amico. Senti, non avrei mai potuto rubarti a un altro. È veramente un peccato che la nostra amicizia sia dovuta finire. Pioggia viola. Pioggia viola, io volevo solamente vederti sotto alla pioggia viola. Tesoro, lo so che i tempi stanno cambiando, è ora che tutti noi ci impegniamo per qualcosa di nuovo. Tu dici di volere qualcuno che ti guidi, ma non mi sembra che tu ti sia decisa. Secondo me faresti meglio a chiudere e lasciarti guidare da me verso la pioggia viola. Pioggia viola, pioggia viola, voglio solo vederti nella pioggia viola. I think you better close. Let me guide you. Giacomo, ci sei? Io ci sono. Oh, benvenuto, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao. Giacomo Ciarrapico è con noi, saremo io e Fulvio a chiacchierare con te. Intanto come va? Ok. Bene, sì. Dipende da tante cose, si combatte, ogni tanto schivo i colpi, ogni tanto rivio. Tra l'altro ho visto l'altra sera quando c'è stato Saverio Raimondo, poi ti sei... avete fatto un piccolo cenacolo, avete fatto una bella conversazione tra voi. Sì, io penso sia... Saverio sia una persona che fa una cosa che in Italia nessuno sa fare, poi insomma non è che appunto forse nessuno ci prova neanche, ma non c'è la cultura del cabaret come in altri paesi, e il cabaret viene vista come una cosa deteriore in Italia, non si sa perché lo si accosta a cose brutte, invece il cabaret è un'arte molto nobile e molto difficile. Saverio a 32 anni già dimostra essere un talento. Sì. Tra l'altro ha messo su un gruppo di stand-up comedians che si stanno dando da fare in giro per Roma. Insomma, ogni tanto, presto li ospiterò anche qui in radio. Insomma, si stanno dando molto da fare. Ma questo è... c'è chi si è rassegnato e chi invece no. Ma Giacomo Ciarrapico al Valle, da dove nasce questa passione e perché è ritornata questa passione? Insomma, origini e presenza del Ciarrapico, autore di Boris al Valle, dai. Perché, no, ma in realtà, insomma, ho fatto moglie da Fulvio e poi guarito. Però, no, insomma, mi ci sono affacciato come... molte persone che vivevano in questo panorama culturale italiano, e quindi dicendo vediamo che succede e se c'è qualcuno che ha voglia di alzare la voce cercando di fare una rivolta culturale. Questa era un po' la voce che sembrava arrivare proprio dai primi giorni al Vallo, ossia, e siccome questo paese ha bisogno di una rivolta culturale, c'è stato un grosso... noi veniamo da anni incredibili, non spiegabili all'estero, insomma. E in Italia il panorama culturale è terrificante, ma da tutte le parti, anche da chi si sente migliore, ovunque, orribile. Quindi il fatto che delle persone dicessero oh, ma veramente non possiamo fare niente, come dicevamo prima, invece di essere rassegnati, decidono di mettersi insieme e provare a farlo in maniera diversa, e quindi non solamente lamentarsi, ma proporre una cosa realmente diversa, o forse l'unica cosa viva in circolazione, insomma, a quel punto uno va là, dorme, parla, si informa, si costringe a sapere, perché questo anche a un certo punto si diventa, se no, dei manifestanti da letto, cioè sei a letto e la gente sta manifestando e te dici guarda sono col cuore là, non vengo, e invece questo non va bene, questo significa che stai già morendo. Fulvio, tra l'altro noi abbiamo un contributo del lavoro di Giacomo, vero? Sì, assolutamente. Di che partito è tuo padre? Cosa cambia? Di che partito è tuo padre? Dei Verdi. Ma vattene! Ma vattene a casa! Sto catalitico! A catalitico! Io sei uno quattro! Giacomo, questo spezzone che cosa? Come ce lo spieghi? Ma guarda, intanto è la solita cosa, ossia prendere quello che appartiene alla realtà e vedere come l'affronta la fiction e cercare anche di capire perché hanno sbagliato tutto. Questo è secondo il nostro parere. E questo è il caso anche di un disabile, cioè che la fiction ha un razzismo nei confronti della disabilità perché non consente al disabile di essere un pezzo del merda. E quindi è negare una libertà che è una delle poche che può avere magari un disabile, cioè, e quindi Gianluca ha fatto un film bellissimo, si chiama Piovono Mucche, che raccontava storie di volontariato anzi no, di servizio civile dentro, sì, me lo ricordo, a una comunità, sì, quello, quello era già un film che affrontava la disabilità con grande coraggio, insomma, e infatti i disabili lo hanno anche molto amato quando l'hanno visto, cioè, e in Boris abbiamo detto vabbè, facciamo che c'è un fan che è un ragazzo è disabile, ma è uno stronzo, è un pezzo di merda, cioè questo ci sta, cioè, nel senso, può succedere ed è un diritto che appunto altri non danno loro. No, ma tra le altre cose... no, io devo essere più spiritoso forse? No, no, volevo farti una domanda un po' intellettualoide. Ah, la merda, no? Sì, sì, un po' intellettualoide. Quant'è attuale Boris, visti i risultati elettorali? Cioè, c'è una relazione tra Boris e i risultati elettorali? Guarda, non lo so. Cioè, la sensazione è che forse c'è un po' di persone che sono stufe di tutto quello che offriva il panorama prima e cercano altrove qualcosa. Io spero che con Boris abbiano trovato, non so che cosa, invece come non voglio mettermi a analizzare quello che è successo adesso perché sarebbe lungo, però comunque sento che la gente sta cercando e appunto il Valle, diciamo prima, è un tentativo di dare sfogo a chi cerca qualcosa di diverso da quello che ha visto fino adesso e di migliore soprattutto. Dai, ti facciamo detto sentire questo, Boris, sì, forse in un paese come la Spagna o come la Francia sarebbe stato un prodotto normale, senza sì, che buono, forse per certi casi certe puntate migliori, altri meno, cioè, e invece in Italia è sembrato molto buono a molti proprio perché non c'era molto altro. Questo da parte nostra per noi è una fortuna enorme, perché figurati, avendo fatto un prodotto medio siamo riusciti a essere considerati molto bravi, cioè, e poi magari invece appunto non lo so, il fatto che ci sia una delle peggiori sinistre d'Europa porta a dei movimenti creati creati in maniera completamente diversa a quelli di fare incredibili, quindi il fatto che abbiamo la destra e la sinistra peggiori d'Europa, insomma, può far succedere di tutto in questo paese. Ti facciamo sentire un'altra sorpresa, resta in linea. Io ho un gruppo teatrale a Padova con cui ho fatto spettacoli di strada. Ah, abbiamo anche delle registrazioni, gliele potrei mostrare? No. Beh, ovviamente non a lei, magari a qualche suo collaboratore. No, no, assolutamente no, mi creda. Beh, forse hai ragione, dovremmo passare per una via più ufficiale, aspettare il bando. No, ma quale bando? Lei non capisce. Le cose stanno cambiando. Ok, sì. Però mi scusi, ci sarà un modo. Voglio dire, capisco che è difficile, che è improbabile, ma ci deve essere un modo per proporre un'idea. Brava, è proprio questo il punto. Non c'è. Non c'è più. Noi, come Teatro di Roma, vogliamo eliminare adesso alla base questa possibilità per poter lavorare fra di noi, ossia fra persone che si conoscono da sempre, che si fidano l'uno dell'altro. Insomma, lavorare fra pochi amici fidati. Chiaro? Allora lei mi deve dire che cosa deve fare un giovane in Italia per poter... Maestro! Maestro! Oh, carissimo! E questo era un altro contributo da Boris. Io scusa Giacomo, ti faccio delle domande dirette a questo punto. Quali sono le cose da non fare quando si scrive? Vabbè, ma sembra uno, no, io sconsiglio sempre di alcune cose che abbiamo già visto ed è inutile rifare. Perché è come se appunto chi scrive, molti giovani autori, invece di inventarsi cose nuove, quando leggi delle sceneggiature ripercorrono delle cose che hanno già visto senza saperlo, forse inconsciamente lo fanno. Però se si vedono queste sceneggiature in cui c'è l'ufficiale nazista con le mani dietro la schiena che guarda fuori dalla finestra e dice venga avanti, insomma, la signora entra, ti mi dice, insomma, l'avevamo già vista questa cosa, non si può più farla, oppure l'amica un po' timida che si deve vestire accompagnata dalle altre amiche e il montaggio rapido con la musica, vediamo che insomma questa si cambia e ci sono i controcampi. Con questi si mette le mani in faccia, non sono d'accordo sul vestito di turno, insomma, abbiamo già visto, cioè basta. E ci sono tante cose per cui tu dici sì, ho capito, ho già so quello che sta per dire, insomma, bisogna provare a non avere la memoria biologica di quello che si è sentito. Non è facile, però insomma. Ma nel potrei citarne tante, però poi attacco il missile. Nel genere che indagate voi, no? Perché poi siete in tre e anche questo sarebbe un po' da raccontare, tra l'altro, come fate a... Però c'è un'altra domanda, le commedie come devono finire in Italia? Cioè, quando è che veramente è una commedia in Italia? No, nel genere commedia sentimentale solo se alla fine si amano. Cioè, tu puoi farire quanto ti pare, ma se poi alla fine non si amano, non è una commedia. Cioè, non è una commedia, non è una commedia. E mi sembra che ti sia capitato, no? In un tuo film. Certo. E no, ma poi tra l'altro il problema è che la commedia, cioè, italiana, ci sono molti autori che si chiamano, che vengono definiti la commedia all'italiana, ma che fanno dei film buoni, piacevoli, ma che non fanno mai ridere, però sono definiti, non so perché, come autori della commedia italiana, non lo so, perché, cioè, poi non è che facciano dei film brutti, ma che non fanno mai ridere, però sono commedia all'italiana. Va bene, senti, d'obbligo. D'obbligo, sappiamo che insomma tra poco ritornerete sul set, giusto? Gli autori, sì. Di Boris, senza anticipare niente, però due parole su, insomma, perché insomma lo stiamo aspettando tutti. Beh, pure noi lo stiamo aspettando, no, nel senso lo stiamo aspettando poi in questo momento qua, cioè l'ultima parte dell'ultima versione. Beh, speriamo intanto che sia un buon film, perché già se lo sbagli e non piace a noi è già un dramma. Poi la storia in cui per la prima volta ci lanciamo anche un po' in un campo che non ci compete tanto, cioè è quello dei sentimenti tra uomo e donna, è quello in tre, infatti la famo a botte tutti i giorni, perché è molto complicato raccontare sentimenti in tre. C'è anche quello nel film, insomma. Però una cosa che mi dicevi l'altro giorno, che è una cosa di cui siete sicuri, che questo film probabilmente non incasserà. No, ecco, non siamo sicuri che sia per forza un flop, però sappiamo che non sarà una di quelle commedie che fanno quelle cifre incredibili che hanno fatto le commedie negli ultimi anni, perché comunque in qualche modo cerchiamo di andare un po' in controtempo con le risate normali, questo proviamo a farlo anche in Boris. E infatti poi, tra l'altro, Boris è un prodotto abbastanza clandestino, se uno parla, ma lo conoscono in molte meno persone di un buon prodotto, che ne so, che va sulle nazionali, o di un prodotto che va bene, cioè, nel senso, siamo comunque abbastanza grandissimi, e proprio per questo anche un po', perché comunque in qualche modo le scene che abbiamo sentito prima sul Teatro di Roma, dai, comunque se mio fratello la sente, non sa di che sta a parlare, pensa che parli seriamente questa persona. Cioè, pensa che veramente sia una cosa buona che lavorino in pochi amici di dati, cioè, non è detto, perché comunque questo è chiaramente di chi in quel caso là sta nel campo del mondo dello spettacolo. Quindi il tentativo è anche tentare di allargare un po', ma noi rimaniamo un po', diciamo, non proprio pop, che non è per forza, anzi è un male, perché bisognerebbe cercare di essere più allargati possibile, però non può succedere. Giacomo, ci si... Ma no, forse c'è un altro... Sì, sì. Non c'è, mi sento una cippa. Pronto? C'è stato un contributo con una delle parole impossibili. Giacomo, noi ti salutiamo, ci vediamo al Valle. Dai. E ti salutiamo con un ultimo spezzone di Boris. Abbraccio. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao. Scusami, ti volevo dire una cosa a proposito delle sceneggiature degli ultimi mesi. Ecco, se mi fai anche la cortesia di riferirlo ai tuoi colleghi sceneggiatori. Vaffanculo! Il notaio comico degli mortacci vostra! Ma che, ma sei pazzo? E poi devo aggiungere una piccola cosa. Vi siete scordati una cosa piccolissima. Sarebbe? La piccola Natalia. La piccola Natalia, e questo lo dicono almeno 10 personaggi sulla sceneggiatura, parla solo con me. Lei parla solo col notaio, quella piccola mentecatta di merda in coma. Perché la fa ridere, la fa divertire, la parte comica, no? Lei fa... e se capimo, gli altri non capiscono un cazzo, e il notaio sì. Non parla né con i familiari, né con i medici, nemmeno col dottor Giorgio. È un dono speciale del notaio, gli ho scritto così. Natalia! E quindi non mi puoi ammazzare, capito? Il notaio non può morire, hai capito? Brutta merda di uno sceneggiatore avido bastardo! Sei un pagliaccio, sceneggiatore cane, che ruba il lavoro a quelli bravi! Quanti lavori stai a fare? Quante case ti sei comprando, brutta merda sceneggiatore di capabbio di sta fava! Attaccate al cazzo! Al cazzo te devi attaccare, hai capito? Io resto inchiodato qui e vaffanculo. Tutto questo per iniziare il momento di progettazione del Valle e per dire che appunto Giacomo Ciarapico in questi giorni sta insomma facendo un laboratorio al Valle sulla scrittura comica inserito nel progetto Cavi, e tutti i martedì e il venerdì dalle 17:20 è aperto agli auditori, e insomma se vogliamo scoprire i segreti degli autori di Boris venite al Valle. Chi ha detto che non esiste al mondo un amore vero, fedele ed eterno? Al mentitore si è tagliata la malefica lingua. Seguimi, lettore, segui solo me, ed io ti mostrerò un simile amore. Mi vendo l'anima, sabato 16 marzo dalle 21. Eccoci qua per parlare di programmazione di questi giorni a venire. Io mi sento molto normale in mezzo a tutti questi diversi. Chissà se riesco a dire delle cose abbastanza diverse che sembreranno più normali di quelle diverse. Vabbè, comunque, tanto per dire, stasera cominciamo con delle cose in cui si cercherà di parlare di cambiamenti, da quelli climatici a quelli sociali, a quelli culturali, a quelli politici. Iniziamo con un Commons Caffè alle 17 insieme a Giuseppe De Marzo, autore di Anatomia di una rivoluzione, giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e battere la crisi. In realtà Giuseppe, edito da Castelvecchi, sostiene che l'unico modo perché ci siano dei cambiamenti efficaci nelle politiche ambientali è ascoltare i movimenti per la giustizia ambientale e sociale che stanno mettendo profondamente in discussione il modello di sviluppo. E noi il modello di sviluppo, il liberalismo, il capitalismo, tutte queste cose le mettiamo in discussione con le nostre azioni e la nostra pratica da un paio di anni. Ovviamente non siamo soli, c'è gente che lo fa da molto più tempo di noi. E Giuseppe ci porta una testimonianza che infatti è mondiale, perché lui è stato 10 anni in Sud America, ha partecipato alle lotte di riscrittura per la Costituzione che è stata riscritta, diciamo, in Ecuador, esattamente, in cui si affermano i diritti della natura. A seguire, proprio perché il Commons sarà animato, diciamo così, da Ugo Mattei, a seguire la tribuna politica. Un modo ironico, speriamo che sarà abbastanza ironico, per noi di rilanciare il dibattito politico post elezioni qui in Italia, che insomma c'è poco da dire, però forse è uno spiraglio che si apre. Anche lì in compagnia di Ugo Mattei, con Cristian Raimo che farà da moderatore e Gabriele Poli del Manifesto. Quindi questa sera alle 7 Anatomia di una rivoluzione, alle 9 invece la tribuna politica, vi lascio a domani. Credevate che il gelo invernale avesse bloccato la nostra voglia di muoverci? Ci stavamo solo preparando per il disgelo. Venerdì 8 marzo tiriamo fuori l'abito elegante perché torna al Valle Occupato il Riot Swing, giunto al suo terzo ed imperdibile appuntamento. Non lo facciamo in un giorno qualunque, ma inauguriamo l'inizio della fresca primavera che accarezzerà le gonnelle più scatenate. Donne, regalatevi un delicato ma esplosivo Wyoming Swing cocktail da gustare al ritmo dell'immancabile Giorgio Cuscito and the Swing Valley Band. Il foyer del Valle sarà ostaggio dei The Swing Pistols, i fuorilegge dello swing, featuring Ezza Pop in cortese. A fronteggiarli ci saranno gli insegnanti delle scuole di swing, Monia's Rhythm Tap e Swing Cat. A quel punto serve solo assecondare il ritmo, che profuma di sommossa di fianchi. Venerdì 8 marzo, a partire dalle 19. La Siria resiste, anche creativamente, al dolore. E anche creativamente dimostra a chi non la vuole capace di scegliersi il suo futuro e il suo diritto alla dignità, di essere una società matura che può e deve essere libera da ogni tipo di oppressione. Sabato 9 parliamo di un altro soggetto molto importante e soprattutto molto triste per la situazione, i Guardiani delle Immagini, un work in progress in immagini, testi, musica, social media e altre suggestioni dalla rivoluzione siriana. Due parole in più soltanto per parlare della Siria, di una situazione che nasce, che comincia il 15 marzo del 2011, dove un gruppo di manifestanti, una cinquantina di persone, vanno in piazza, cominciano a manifestare al grido Dio, Siria, libertà, parafrasando lo slogan di sostegno al presidente siriano Assad, che recita Dio, Siria, Bashar e basta. Quindi dopo questa manifestazione il governo ha cominciato una guerra, una repressione del popolo, e in questi due anni che si sono susseguiti il popolo sta continuando a subire attacchi, bombardamenti, e ci sono circa 70.000 vittime ad oggi. La serata appunto è dedicata alla Siria, a cercare di parlarne, cercare di far venire fuori attraverso anche le opere d'arte che sono nate in questi due anni. Molti dei cittadini infatti si sono espressi attraverso dipinti, attraverso poesie, attraverso molto anche attraverso i social, e quindi la serata sarà un continuo di immagini, di video, di parole, e con la presenza degli stessi siriani che faranno delle performance. A proposito, ci sarà anche un flash mob molto allargato. Abbiamo aperto ieri una chiamata, quindi per chi vuole partecipare a questa performance, a questo flash mob all'interno del teatro, può presentarsi sabato alle 2. Poi il flash mob ci sarà intorno alle 9. La serata invece comincerà dalle 18:30 con varie performance in giro per il teatro. Il flash mob, voglio soltanto dirvi di cosa si tratta, è un'azione teatrale e parla del bombardamento che è successo il 15 gennaio del 2013, quindi proprio pochissimo tempo fa, all'Università di Architettura di Aleppo, proprio durante una sessione di esami. I ragazzi sono rimasti chiusi dentro, bombardati sempre dalle forze aeree, e non potendo fuggire, non potendo uscire, hanno cominciato a disegnare, dipingere, scrivere poesie, insomma esprimere tutto il dolore e tutta la paura che provavano in quel momento attraverso l'arte. Grazie. Quindi queste tre serate, stasera, domani e dopodomani, sono tre serate importanti, anche perché al di là degli argomenti che trattano sono completamente vallocentriche, vallonate, vallesi, vallotiche, insomma tutte fatte al Valle. Ciao. Desmanializzazione. Sì, volevamo ricordare che allora tra i tantissimi ospiti del Valle di oggi ci sono appunto anche le parole difficili. Transustanziazione. Il cappello lo puoi tenere. Baby, togliti il cappotto, molto lentamente. Baby, togliti le scarpe. Qui, le prendo io. Baby, togliti il vestito. Sì, sì, sì, il cappello lo puoi tenere. Il cappello lo puoi tenere. Il cappello, lo puoi tenere. Vai di là e accendi la luce. No, tutte le luci. Adesso torna qui e monta in piedi su questa sedia. Così va bene. Alza le braccia in alto. Muovile. Mi stai dando un buon motivo per vivere. Mi stai dando un buon motivo per vivere. Mi stai dando un buon motivo per vivere. Mentalità sospettose stanno parlando di noi. Cercano di dividerci. Sostengono che il mio amore sia sbagliato. Non sanno cos'è l'amore. Non sanno cos'è l'amore. Non sanno cos'è l'amore. Non sanno cos'è l'amore. Non sanno cos'è l'amore. Sempre per gli insostenibili anni 80. In realtà sono gli ingiustificabili. Ingiustificabili. Proviamo anche a fare delle cose serie, insomma, non so, la politica è in subbuglio ultimamente. Però noi continuiamo un po' a ragionare su veramente come può cambiare questo paese, anche da un punto di vista strutturale. E ci stiamo ponendo, insomma, delle domande su anche che tipo di occupazioni sono queste di nuova generazione, che valore possono avere. Allora, che ci mettiamo? Allora, un po' di beni comuni, ecco qui, un po' di beni comuni, così, un pizzico di beni comuni, ecco, fare soffriggere i beni comuni, il bel soffritto dei beni comuni. Ah. Allora, sì, parlavamo di occupazioni di nuova generazione, o meglio occupazioni costituenti. Per spiegare bene questo concetto, secondo me si può fare un parallelismo. Cioè, Vittorio Foa descriveva molto bene le occupazioni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dei contadini che occupavano i grandi latifondi, e De Gasperi mandava i soldati a sparargli perché era impensabile lasciare agire contro la proprietà privata questi contadini, anche se lo facevano in un modo che ora pensiamo legittimo. Allora però c'era, insomma, ricordiamo quello che diceva Calamandrei del compromesso costituzionale, cioè una costituzione promessa in cambio di una costituzione in realtà fallita, cioè si voleva cambiare il sistema, in realtà tutta la frangia comunista accettò il compromesso. Oggi invece ci troviamo in un momento in cui occupazione vuol dire restituzione. È un'occupazione che trova la sua legittimità proprio perché siamo in un momento di mutamento strutturale, quindi anche questa azione trova un altro respiro. Si inserisce in un momento in cui i diritti fondamentali non riescono più a essere garantiti dal sistema statale, istituzionale, e soprattutto dallo stato dei partiti, che in questo momento poi è in crisi totale insieme al sistema rappresentativo. Quindi occupare uno spazio e restituire la cittadinanza a titolo di proprietà collettiva, perché è di questo che si parla, naturalmente ha un respiro e una prospettiva costituente. Direi che questo è il modo migliore per concepirla. Appunto accennavi, parlavi di proprietà, no? Siamo, insomma, abituati forse al di là della Costituzione a pensare che la proprietà o è privata o è pubblica, cioè o è di un solo individuo o è del pubblico, che però è un pubblico che non si capisce più chi è, perché non si capisce più chi amministra il pubblico, non si capisce più chi decide cosa, non si capiscono più i CDA di chi amministra il pubblico, da chi sono nominati e secondo cosa decidono. Allora noi ci stiamo interrogando su appunto se possa esistere o si possa modificare questo concetto di proprietà. Diciamo che siamo in un momento in cui la proprietà privata in un certo qual modo influenza e agisce anche all'interno del pubblico. No, i beni comuni! questa è un'altra così, lancio sonoro sui beni comuni, che in realtà sono proprio questo istituto di diritto che la Commissione Rodotà già nel 2007, ormai famosa Commissione Rodotà, aveva studiato nel un progetto di modifica del libro terzo della proprietà, appunto, del codice civile, che risale ancora al 42 ed è diciamo ormai obsoleto da molti punti di vista. Queste azioni di occupazione e restituzione, appunto, a titolo di proprietà collettiva incidono sui modelli proprietari vigenti e impongono una riflessione su, appunto, questa dicotomia, che in realtà è una dicotomia anche un po' finta, nel senso che essendo lo Stato invaso dal sistema partitico a tutti i livelli, porta degli interessi proprietari dentro al pubblico, quindi in realtà la proprietà privata domina sia a livello privato che pubblico, ed è questo che non permette più la tutela di quei diritti fondamentali che invece si cerca di tutelare, appunto, occupando spazi funzionali all'esercizio di questi diritti. È un momento sicuramente di cambiamento storico e le occupazioni, chiamiamole di seconda generazione, comunque costituenti, che si stanno verificando in tutto il paese, ne sono l'esempio. Quindi si può insomma cominciare a dire che, per esempio, i beni comuni non sono semplicemente degli strumenti, dei dati in natura, ma che possono essere forme di riappropriazione, forma dove una collettività si riappropria di ciò che pubblico e privato hanno sottratto. E quindi dalle varie lotte che in Italia, insomma, stanno emergendo negli ultimi anni, ma insomma sta diventando un'onda lunga, si stanno affermando i beni comuni nei vari territori. Sì, assolutamente sì. Per di più, questo il concetto dei beni comuni è, secondo me, l'azione delle lotte nell'ambito di questo concetto prende spunto da un principio, che è il principio di solidarietà, legato anche alla nostra Costituzione, in cui viene sancito il dovere inderogabile di solidarietà in capo a ogni cittadino. Vorrei leggere un brevissimo pezzo che spiega molto bene questo concetto e parla di questo principio di solidarietà che ha avuto una parte infinitamente maggiore di tutti gli adattamenti che possono invece risultare da una lotta tra individui per l'acquisizione di vantaggi personali. Ed ecco perché questo sentimento, questa pratica della solidarietà non cessa mai, nemmeno durante le epoche più difficili della storia. Anche durante le circostanze di dominio, di servaggio e di sfruttamento che adombrarono questo principio, esso rimase sempre nel pensiero della maggioranza, fino a fungere da spinta contro le cattive istituzioni. Si parla di rivoluzione, di diritto alla resistenza verso istituzioni che non seguono la legittimità e la sovranità popolare. E si capisce, perché senza ciò la società scomparirebbe. Ecco, secondo me questa è l'azione delle lotte rispetto al tema dei beni comuni e quindi a questo concetto di vita collettiva e di proprietà collettiva, che insegnano le persone a stare insieme e a portare avanti obiettivi insieme, è fondamentale. Derattizzazione. Hai espresso un pazzo desiderio che potessi tu rimanere giovane e il ritratto invecchiare, la tua bellezza restare intatta e il viso dipinto sulla tela a portare il peso delle tue passioni e dei tuoi peccati. Parrebbe mostruoso persino pensarci. Mi vendo l'anima. Sabato 16 marzo dalle 21. Una serata del diavolo. Adesso basta. Ti lascio e mi metto coi beni comuni. Allora, Guido, torniamo alle questioni, lasciamoli un po' fare le loro cose, torniamo alle questioni, quelle importanti. Insomma, pare che al Valle ci sia messi in testa di spostare il diritto, no? Di addirittura di andare un po' a vedere che cos'è sto diritto, no? Abbiamo sempre, siamo nati e l'abbiamo sempre subito sto diritto con denunce, arresti, no? È pensato che sto diritto, Dio buono, non ci appartiene per niente. Allora vogliamo renderlo un po' anche più umano sto diritto e capire anche cosa vogliamo farne di questo diritto. Certo. Cioè, e qua parliamo insomma, del concetto fondamentalmente di diritto vivo, cioè parliamo del fatto che ci sono, lo scrive molto bene Ugo Mattei in un recente articolo, in cui parla di un'occupazione orgogliosamente contra legem ma non contra ius. Cioè, questo dà proprio l'idea del fatto che un'occupazione costituente, come dicevamo prima, ha tutta la legittimità di essere contro la legalità esistente dell'ordinamento vigente, perché propone un'idea di diritto che in realtà coglie un consenso costituente attorno a sé, sia a livello attuale ma anche potenziale. Quindi il diritto si concepisce in continua evoluzione ed è sempre stato così nella storia. Al Teatro Valle è successa una cosa incredibile. Una settimana prima della tornata elettorale c'è stata questa conferenza stampa di presentazione di una commissione di studio sui beni comuni, sul reddito e una riflessione, diciamo, sistemica riguardo anche ai modelli proprietari e di studio appunto di questo istituto che si inserisce che si vorrebbe inserire nei codici. La cosa è stata descritta come un'inedita alleanza, perché non avveniva da decenni che studiosi del diritto di proprietà e giuristi si mettessero a contatto con le lotte illegali, ripetiamo. Quindi c'è stata una conferenza stampa in un luogo occupato a 300 metri dal Senato, che invece sarebbe il luogo preposto al lavoro di questo genere. E questo dà l'idea di legittimità assoluta riguardo all'occupazione non solo del Teatro Valle ma di tutti i teatri, e non per niente secondo me queste lotte stanno nascendo dai teatri, che erano i luoghi di relazionalità più diffusa nelle città in tempo addietro. Sì, da questo punto di vista, insomma, siamo in un quartiere, San Lorenzo, che ne ha fatto quasi una forma della propria esistenza, sia dell'occupazione e della trasformazione dei meccanismi democratici. E l'occupazione del Cinema Palazzo è veramente da annotare proprio da questo punto di vista, proprio perché modifica il diritto, perché modifica probabilmente la giurisdizione, e soprattutto sottolinea come un gruppo di cittadini che non hanno interessi privati occupa uno spazio in cui invece privati usavano il diritto e altre ruberie per farsi interessi privati. E quindi è proprio un cambio di paradigma quello che il Cinema Palazzo sta proponendo, sta tutti i giorni facendo, proprio contro la proprietà privata, perché forse bisogna cominciarlo a dire che non tutte le proprietà private sono legali, perché la questione qua è capire cos'è realmente legale e invece cos'è legittimo. Allora forse a volte prendersi delle denunce diventa legittimo per trasformare il diritto, per farlo diventare poi un diritto appunto vivo e nuovo. Assolutamente sì, Cinema Palazzo è simbolico perché è stata un'azione che tra l'altro è stata poi riconosciuta, un'azione di lotta contro una gestione della proprietà privata, non considerando tutti gli interessi invece collettivi e di quartiere che erano legati all'utilizzo di quello spazio. Ed è stata riconosciuta da una sentenza questa azione. Addirittura adesso da Avellino, dei ragazzi di Avellino con cui siamo andati a parlare, ci manderanno un'altra sentenza che ha riconosciuto come azione socialmente meritoria un'occupazione del 93. Si sta formando tutta una giurisprudenza che riconosce anche queste azioni di lotta come legittime. E quindi anche questo è uno dei tanti segnali che queste occupazioni e queste lotte per i beni comuni, per questi beni fondamentali per la nostra vita sociale e collettiva, sono legittimi a tutto. Va bene, Federico anche oggi si è addormentato ogni volta che, che parliamo di beni comuni, di diritto. E quindi direi, insomma, okay, che abbiamo esaurito il nostro momento di... E rilancerei invece questa iniziativa, che ci sono già arrivate 2000 telefonate durante quest'ora su questo laboratorio che si è aperto al Teatro Valle, su Gli Ingiustificabili 80. La bamba. Per ballare la bamba. Per ballare la bamba. c'è bisogno di un pochino di grazia, un pochino di grazia da parte mia e da parte tua. Dai, dai, dai, dai, per te sarò, per te sarò, per te sarò. Io non sono un marinaio, non sono un marinaio, sono il capitano, sono il capitano, sono il capitano. Bam ba, bam ba. I beni comuni. Lo swing apre dubbi sulle proprie convinzioni, fa arrivare a fondo ma anche rispondere più liberamente, perché ogni beat richiede ai musicisti di riformulare i rapporti fra loro. Anche in democrazia, perché il potere sia efficace, l'unica strada è mantenerlo unito e condividerlo con gli altri. Se viene meno questa comprensione, allora è battaglia per vedere chi suona più forte, chi parla più forte, chi è più forte. Bella frase di Marsalis. Questa frase l'ho trovata oggi cercando qualcosa sullo swing. E, insomma, c'è poco da dire, nel senso che appunto dalla musica si passa alla politica, si parla di democrazia, suonare insieme in un certo modo significa stare insieme, significa partecipazione, significa condivisione. Quindi, dato che a noi ci piace tanto mettere insieme culture diverse, linguaggi diversi, forme diverse e persone diverse, volevo accennare al nostro invito che ci è arrivato, anzi all'invito che ci è stato rivolto dalla Finlandia per quanto riguarda il dialogo fra le culture del premio Anna Lindh che abbiamo vinto l'anno scorso. E a questo legarmi a un'altra cosa, sempre parlando di dialogo fra le culture, ovvero il festeggiamento del capodanno curdo, il Nevroz, che ci sarà al Valle il 21 marzo. Quindi vi invitiamo tutti, sarà una serata di grande festa, buon cibo, buona musica. Li conosciamo già, i curdi, ci siamo sempre divertiti, quindi non vedo perché anche questa volta non dovrebbe andare così. Il 21 marzo al Valle Occupato. Tanto siamo ancora al 7, ci sarà anche il 14 per riparlarne, chiaramente. Assolutamente sì. Lei ha bisogno di un costume particolare? Sì, uno smoking, un mantello con cappuccio e una maschera. Un mantello con cappuccio e una maschera? Sì. Ok. Adesso cerco di trovare tutto. Per cosa ti venderesti l'anima? Mi vendo l'anima. Sabato 16 marzo dalle ore 21. Presto i dettagli e voi preparatevi ad entrare in scena. Ok, allora prima di lasciarci molto velocemente ricapitoliamo i nostri appuntamenti. Stasera Commons Caffè, Anatomia di una rivoluzione, Beppe De Marzo e Ugo Mattei. A seguire Tribuna Politica, senza governo e senza papa, vediamo un po' che esce fuori, sempre con Ugo Mattei che è la nostra guest star del giorno. A seguire domani ci sta Riot Swing, quindi venite a ballare come i pazzi, e poi sabato questa serata sulla Siria, sempre di nostra produzione, per parlare di una cosa così terribile che è sta guerra civile che sta ammazzando un sacco di gente, io mi chiedo perché se continuiamo a ammazzare. Comunque, a parte questo, un'ultima cosa per domenica, passo la parola sì, a Simona. Allora, domenica invece non abbiamo detto prima, ci siamo dimenticati, c'è Common Story, sono tre appuntamenti e domenica c'è il secondo, conversazioni di storia e diritto sui beni comuni. Abbiamo pensato di raccontare tante storie diverse, molteplici ed aperte, storie che hanno come protagonisti i beni comuni, il comune, il conflitto, le donne, gli uomini che le hanno incarnate e vissute, storie che raccontano di grandi lotte, di tanti soggetti, di importanti realizzazioni. E domenica il titolo è La colonizzazione come paradigma del saccheggio dei commons, introducono Gianluca Bascherini e Chiara Giorgi alle 18. Bene, allora Del Valle occupato, vi salutiamo con una nota di merito, Federico, se si può in questa radio, un po' di autoreferenzialità. Allora, siamo gli unici da due settimane che hanno fatto un'ora di trasmissione radio, un'ora di televisione, senza nominare Grillo. Oh, chiudiamo con i riferimenti, se no? Sì, allora, c'è il nostro sito in costante aggiornamento, mi raccomando verificate sempre quello che succede perché da noi le cose cambiano in modo repentino, è una bella cosa, a volte ci mette in difficoltà, molto spesso invece è proprio un segno di creatività, ce ne abbiamo tante di cose da dire, forse anche troppe, speriamo di dirle in modo comprensibile, comunque l'indirizzo è www.teatrovalleoccupato.it. Grazie a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, giusto? Esattamente. Ciao. Ciao.